ha fatto l'esperienza, un'organizzazione praticamente, che ha messo in uscita, ha messo tutto il corriere che trasportava, eccetera, eccetera, tutto in uscita fatto bene, e niente, c'era scritto power seller, che sarebbero quelli che, i venditori che sono più quotati, nel senso che sono veloci nello spedire, eccetera, eccetera, e persone come si deve, capito? Ha fatto tutto lui, capito? Era un'organizzazione, me l'ha detto la polizia postale, io lo sono andato a denunciare, ma mi ha detto che praticamente questa gente qua fa vita da nababbo, va in alberghi di prima categoria, donne, champagne, questo e quell'altro, però dice prima o poi, anche se è difficile, lo sanno che prima o poi li mettiamo i ferri, però se quando li trovi, questa riorganizzazione, sai cosa faceva? Andava in Inghilterra, ti telefonava con una carta che possono usare solo loro per telefonare, praticamente tu li mandavi i soldi, ti dava tutti i dati, praticamente li mandavi i soldi, una volta che loro avevano i soldi prendevano e scappavano in un'altra città, quindi non li pigli mai. L'hanno fatto anche con un amico mio nella fotografia, gli ha inviato 1200 euro con la macchina fotografica della Canon che costava 1700 mi pare a Roma. Cazzo, lui gli ha mandato 1200 euro, gli hanno bruciato. Ma è casino. Poi questi sembrava un negozio, sembrava proprio, perché c'era il numero di telefono per chiamarli, tutto, c'era. Quando li ho chiamati a questo qua, tutto inesistente, non si agaccia di più. Perché? Te l'ho spiegato cosa fa. C'hanno questa carta telefonica che non ti devi registrare niente, è una carta telefonica prepagata, tu parli e l'altro non ti può chiamare, però capito? Puoi parlare solo tu, poi la butti via, nessuno sa niente, capito? Me l'ha spiegata la polizia postale come funziona. E purtroppo hanno fregato molta gente, hanno fregato a me, hanno fregato a Maestrale, con Maestrale c'è stato lui che mi ha toccato, ci sono due garage, praticamente sono avanti di magazzino, li stanno dando per 200 euro, ti danno anche il microfono amplificato della ZG, l'MP+5, a regalo. Questi qui sono ancora scartonati, solo che non sono stati mai venduti e ce li hanno in magazzino, sono nuovi. E ho detto, adesso prendiamoli subito, siamo andati sul sito, ho controllato tutto. Io guarda che se qui ho comprato un po' di roba, non mi hanno mai fuggito, solo quella volta lì e basta. Capito. Vabbè. Questa volta l'hanno fregata a me, ma una roba usata mi hanno dato, dai, le batterie non tengono niente, adesso mi rifaccio le batterie, perché se le metti le batterie più potenti, lui funziona, l'avvitatore funziona, però quelle batterie non ce la fa, sono le batterie che non ce la fanno, adesso me le ricostruisco, le metto, gli rifaccio il pacco batterie e gliele faccio più alte, gliele rifaccio. E più che così non posso fare. Ma la batteria va? Sì, la batteria. Sì, ma con la batteria non penso che abbia forza a smollare. Sono un po' fregature queste qua. E un'altra volta ho comprato, visto quel robot quelli che puliscono da soli, che tu li comandi da telefono, le cose loro si mettono a pulire, ti puliscono la casa, e io per il pelo del cane, che se te lo compro, io non mi ne affitto più. Ho preso e comprato questa cosa, l'ho pagata oltre 100 euro, 160 euro mi pare. È arrivato a casa un giocattolo, non funziona un cacchio, non aspira nulla, un giocattolo, l'ho messo da parte, non l'ho manco più caricato, non serve a niente. Queste cose non conviene prenderle da internet, conviene andare e provarle e vederle qua, tanto le paghi lo stesso coso, le paghi, le ho viste qua anche da un euro, quelle cose lì, sono scoppe elettriche che le chiamano, quelle lì, e camminano da sole, vanno da sole, c'hanno un coso, come sbattono, girano. Hey, sono bottini, e praticamente quello che ho visto costava sulle 400, però sono serie, capito? Se la compri, la compri serie. Ma 400 euro con l'aspirapolvere, se la bidello ci sono i figli. Qui uso quella che ho, va benissimo, aspiro col filo e buonanotte, e cosa devo fare? Se no c'è anche quella sulle 350, così, quella che si chiama Dyson, quella senza figli. Ecco, vabbè. Sì, ho già, ci sono quelle batterie che se ti fini, quelli buoni ti spaccano il mollone se stringi troppo. Ma che tipo di batteria hanno? Batterie normali? Evitano i trapani, gli abitatori normali, quelli a batteria. Ma di quelle batterie lì? Ah, quelle a baionetta che si vede. E a baionetta, tipo scarpetta. Ho capito, Natali ci sei? Non ci sono, ci sono già. Hai un senso, di là tua. Tu che compri da internet, che compri molta roba. Vabbè, poca roba, ne ho fatto, cioè che non ho lasciato i soldi a eBay, adesso mi dirà un bel. Ma ultimamente mi sta arrivando Monday, adesso domani mattina, se ce la faccio stanotte svegliarmi a mezzanotte, io prendo l'appuntamento, perché devo rispedire un pacco indietro. Questo display l'ho piazzato prima di mamma, non gli ho levato le pellicole. E mi dice tutta la striscia verticali. Infatti gli ho mandato un'email, ho detto vabbè, non ci sono problemi, ha scritto. Rispedisimolo indietro e ti faccio il rimborso. Questo rimborso minimo ci passano 20 giorni, ma 10 giorni da circa. 7 giorni, a marzo che l'hanno fatta, mio figlio, 7 giorni l'hanno pagata. Praticamente aveva preso la PlayStation, quella nuova, la 5, e c'è stato un temporale e ha fulminato, praticamente è scesa sull'antenna del televisore. Questo fulmine ha rovinato anche la PlayStation, lui gli ha scritto che non funzionava, gli hanno mandato indietro e l'hanno data nuova. Vabbè. 10 giorni o 7 giorni di subire, se per aspettare arriva che dici di bicchiare subito, adesso gli faccio la spedizione come me l'ha fatta lui a posta CLL1, si paga 2,80 mi pare, non è manco tracciabile niente, comunque dice che c'è il coso che ti arriva al pacco, adesso vediamo, me l'ha detto, se arriva io sarò lì in culo, giù verso di là. Perché non lo fai normale? Perché lo devo pagare io? Ma no, lui l'ha fatta da Amazon, io sto sbagliando, lui aveva preso da Amazon, sono andati e gli hanno preso a casa il pacco. Ah, da Amazon sì. Vabbè, forse è vero. Attenzione Andrea. Poi c'erano queste spedizioni che vengono a casa, mi ha detto il nome del corriere, si paga 6 euro. Solo che chiamo e non rispondono, non mi lecca, non rispondo, vattene a cuccia, vai, muoviti, vai a portare la papa. No, mi ha detto di fare questa posta 1, questa prioritaria 1. Come? Drogato. Bella. Cagarella. Che c'è? Come di Gianni più? C'è Gianni Caballero, quanti già? E intanto non te ne do di droga. Radio Cucomane. Ma tu sei giocato un amico mio, delle lacrime mai sono scesi. Ma che cosa? Un amico che conosco, è un vero Cucomane, ma ribadio un fumo, mi capito? Ribadio un fumo, che ci siamo trovati, ci siamo salutati, e mi ha detto una cosa, un bel gruppo di... Dico perché c'era un periodo che lavoravo in una zona un po' particolare, ogni tanto mi fermavo, non avevo nemmeno meno mi ci venutano, avevo un sigaretto, non avevo morire beba. Alla fine sono ceduto un giorno e vabbè, preso questa cosettina e faceva il nevico per quello c'era il quattrone. E la sua rimbalata. E mi ha detto, no, sì, guarda, il cerchio del patto lo metto tutto dentro il busta nero, no? E poi lo 15 anni fa, ero ragazzino. C'era questo tipo che frequentava con noi. Andiamo a fare una buffonatura. Sono quattro cannoni, uno spinato, un bugiato, grudato dentro. Oh, attendi tu, però questo qua adesso è tutto messo male, tossico dipendente, è diventato, sta molto male proprio. C'è una famiglia anche, due figli, tutto, un immollato tutti, pure sempre i genitori. Vabbè, figlia si fuma su cannoni, si fa di, la scelta c'è la gente, attendi me, attendi che a buono mica, sei lo brodo di attendi. Oh, l'hai visto su TikTok a Ciccottino? Chi? A Ciccottino. E di dedicato Francesco di Mosciutone. Si vede, dico, da puttugata a cagnotte a faccia. Sono una di me Ciccottino. Che pisciò già mi mattava, vero? Ma no, mi ammazzava. Ascolto un certo, ma ieri ho letto la voce a Santa Maria di Pisa. E avevo appena fatto la macchina, che mi stavo fumando una sigaretta vicino a lui, e via. E poi si avviene la rubofono. Spostati, spostati. Quanto va dietro, quanto proprio, spostati. E lui mi fa un altro, ma sì, ma adesso è perché è così. Prima io dico, quando non si faceva, e cosa era? Era un tipo che chiudeva a voce. Ah, è fina, chiudeva a voce. Lasciava la scia, vabbè, e poi c'avevo questo tipo malato di tumore, c'aveva tutte le gambe, tutte, sembrava fatto apposta, bucato con il drappo, lui c'aveva il sangue da queste gambe, ma sono tre tumori, questa facevano anche la chemio, poi quello lì è morto, si fumava pare 3-4 pacchetti di sigarette da lì. Vabbè, non so se è morto, però comunque era morto di tumore, c'è anche lui ricoverato, si quanto è morto di tumore, questo qua sabato. No, non si sa, non riusciamo a capire. Non riusciamo a capire, è un discorso troppo lungo, non riusciamo a capire. Non si riesce ancora a capire, non so, ho provato molto a casa, comunque. È vero che lui si stava curando poco, non troppo io, è vero che si stava lasciando andare, quindi tante cose ci possono essere, ma non era malato di tumore. Assolutamente, però nessuno ci ha dato risposta, vabbè. Tutto in sordina, vabbè, così non va bene, ma se va bene a loro, figurati di più. Avanti già. Allora io ultimamente, cioè l'ultima volta che l'ho visto, ero sempre al quadrato con la macchina nuova, quindi non è nemmeno tanti anni fa. Lui ci ha fiancato la macchina e mi ha detto, e beh ci ha fatto, guardaci bene, era con la Station Wagon, me lo ricordo sempre, e mi ha detto che aveva il diabete, che le erano andate male una serie di cose, che aveva aperto quella vita di viaggio a Porto Torres, se quella era andata male, insomma, dice, se occupiamo, ma faceva la domanda per la pensione, perché sono diabetico pure, e non sto bene, mi ha detto. Sì, diceva il diabete, ma l'ho detto anche a me, però era venuto, io ero ancora a Carbonazzi, era venuto a casa perché stava cercando qualcosa da poter appunto prendere per riprendere un po' l'attività amatoriale, infatti qualcosa gliela avevo data ad usarla, non a prendere, invece non si è manco goduto, non si è neanche goduto. Sì, lui, su quello non c'è più, però perlomeno io ce l'ho fatto l'abitudine e quindi forse perché ho lavorato 35 anni in mezzo alla merda e il naso no, sono abituato a sentire gli odori, però ti ripeto, per me, a parte quello, è una persona educatissima, rispettosa, già molto generosa e soprattutto era di un'intelligenza allucinante, veramente molto molto bravo. Se no, se lo sentivi parlando l'inglese, Catabug era bravo, facendo di Exmi. Io l'ho sentito a casa di Natalino una volta, facendo di Exmi, perché andava da Natalino a trasmettere. L'ho sentito parlando in inglese, allucinante. Lo so. Io ho questa radio sua, non lo volevo dire, però lo dico. Io ho 140, li avevo dato io e di nuovo qua. E non uscirà mai più da qui, perché anzi ho completato anche la linea, perché è una radio che io gli avevo dato, quando gli avevo dato ad una persona a me molto vicina, e questa persona mi ha detto questa è la tua, come questa è la mia, sì, questa è la tua. Poi mi ha spiegato le cose, effettivamente, la radio che gli avevo dato io, e vabbè, è qua rimane, vita naturale durante. trasferito dall'Heineken di Pontoise all'Heineken di Porto Marghera, è rimasto un po' lì, certo mi ha donato con i bari con la fuggire che mi sono messo il padre, e tu che hai detto dice se c'è bella del coscia, no, ho tutti i capelli, usi tanto per fare qualcosa di diverso, perché ti rimane con la fuggire. Sì, a chi ti l'ha detto, vabbè, sì, ma non ricordo, ma ha detto la dei capelli più. Ma chi mi ha detto che era gay, non era gay Salvatore, no? Non posso garantire al 100% che non era gay, il mio zio era in femmine, che non so chi si chiama in femmine chi. C'aveva il problema che c'aveva, però ti ripeto, ribadisco, lo sottolineo, che era una bravissima, bravissima persona, generosissima, educatissima, di comitiva, faceva morire di risa, io quando andavo alle feste, quante volte gli dicevo, allora vieni, no, non posso, allora vieni con me, ma mangio io, perché lui era un po' io che aveva anche poca disponibilità, però non c'è mai venuto. Forse perché si vergognava di questa sua cosa non pulita, capite? Sai, quando vai in fiera sei in coppia, a volte noi per risparmiare prendevamo una cabina anche a quattro, a volte sono andato con Core, sono andato con Marco, sono andato con tutti, prendevamo una cabina a quattro, prendevamo la cabina a tre, con Gianni Lunesoli, io Gianni e Core, da morire, cioè da fare tutta la notte, cattivo le lacrime, quando le risate ci faceva fare Gianni Lunesoli. Belle cose, però lui è stato allontanato per il problema che aveva e quindi e chi mi si sente molto, è brutta la solitudine Gianni, è brutta, bruttissima, perché quando lui era da solo che c'era il cutturale di gas a dormire in garage, io non ti dico cosa tutto ho fatto e facevo per lui, perché era una cosa veramente da non vedere. Poveraccio. Cosa ci vuoi fare? Quando uno non c'è più è così. Avanti Frank! Ma c'era qualche altro, perdonatemi, io saluto circolarmente a tutti. E c'era Franco Di Sorso e Luca, e poi è entrato Cristian, però ha fatto quelle sì. Vabbè, vediamo un po' Franco, ci sei. Franco, ho sentito che tu si stava allontanando. Vabbè, avanti. Oh Gianni! Ehi, scusate, ma mi sono allontanato io del soggetto. Ci sentiamo dopo. Ciao Cla, ripeti tu. Ciao, ora ti avevo sentito bene che era arrivata gente. Ciao da qui. A presto, un abbraccio, ci sentiamo, vai già. Ciao Cla, ci sentiamo, buona serata, dai. Avanti, Luca. Ciao Fra, più tardi. Su con quella salsa da pranzo, mi ci metto un bel piattozzo di pasta asciutta, ma buona, per ragù, le bavette, buona. Poi ho mangiato un mandarino e una banana. C'ho ancora il deccio. Gianni! Ehi, dimmi Fra! Guarda che ti ho mandato quell'affare, ti ho mandato, guardatelo come, così lo vedi. Ehi, con lo spettatore. Ci sentiamo, là che c'ho gente, ciao. Buonasera Giovanni, a tutti i moderatori, buonasera. Ciao Giovanni, ciao, buonasera, ben ascoltato, vai già. Ehi, ciao Giovanni, mi hai sentito, là. E allora, che si dice? E come hai fatto a bruciare? Ma che cosa, non arriva il trattore? Scaldava, deve essere andava sotto sforzo, sicuramente non era nato. Io se ti interessa sto prendendo uno di alimentatore, grande, bello, costruiti con. Già, aspetta, però subito mi stanno chiamando. Ehi, Acra, capito. Ehi. Cosa che succede? Ora, se si possono aggiustare, magari c'è qualche cosa di partito, ma ci sta. Cosa? Vabbè. Può succedere, là. Interessa a te riprendersi. Kappa. La vita è questa, l'interessante è andare avanti e curarsi, dai, quando siamo a queste cose bisogna curarsi, ho capito. Ma tu perché non lavori lì a cosa, al manigio? Ah, ho capito. Quindi adesso lì al manigio che cosa stai facendo? Ho capito. No, io pensavo che tu forse avessi preso proprio il maniglio, l'avessi comprato, capito? Va bene solo sulla graticola, così. Bisogna saper riprendere il cavallo. a avere un certo feeling, il cavallo è bellissimo, intelligente, bello, solo che bisogna andare di lì, se non ti fidi che vanno da di qui, dici fra parlo. Uno deve avere anche l'amore per gli animali, deve saper prenderli, eccetera. Tante volte uno magari non le piacciono, capito? E quindi non riesce ad avere un feeling con gli animali. Infatti, eh già, parlaci, io lo sento, un casino così, modulare, cazzo. Lo so, purtroppo non è a colpa lui, c'ha un antennino, c'ha una Turbo 2001 che mi sembra un po' strano che arrivi così basso, perché con la Turbo 2001 io da tutte le parti mi sento. Infatti, vuol dire c'ha l'intento fatto male. Infatti. Chi è Giovanni già? Lo senti Natali? Chi è Giovanni? Tu lo senti Natali? No, non lo sento, no, che c'ho il QRM più alto di come arriva lui. Lui mi ha detto un mini turbo. Se avesse avuto la... e sarà carico di stazionaria con quell'antenna, non sa usare, deve essere neanche il rosmetro per poterla accordare l'antenna, sarà carico di stazionaria forse, sarà fatto male l'impianto. Bisogna andare una mano, bisogna magari scendere, controllare per vedere un po'. Infatti. Cosa mi va il strano da inquilino, arrivi ai nonni? No, no, lì è zona buona, io arrivo bene a Sassari da lì. E allora c'è qualcosa che non va bene lui? E con tutto che io ho la magnetica, non è fissa la mia. Se io trovassi una frusta nera, come dico io, da comprare, farei il buco nella macchina, la metterei al centro capota, proprio dove c'è la bibita, dove c'è lo specchio, il coso, la plafonia. Vai, non servono un cazzo quelle frusta nera. C'hanno 23 canali solo e dopo ti salgono le stazionarie. Non è a larga banda come può essere la 2001, capito? Franco ce l'ha e da Stintina arrivavamo bene a Sassari, siamo andati a pescare un giorno e arrivavano 25 a Sassari. Sul 10 magari, però da 2 anni dopo il 23 ti salgono le stazionarie di Goico. C'hanno 23 canali quelle antenne, manca 40 arrivi, sono strette di banda, perché sono caricate, capito? Ah, così, io, vabbè, noi già moduliamo sempre su 10, non è lì. Ma comunque in ogni caso, è meglio la turbo allora. Io già avevo la mini turbo, me l'ho comprata e... però non mi... cioè... su strada libera andava bene, ma se c'erano palazzi non sentivo più nulla. Allora che sai cosa ho fatto? Mi sono comprato la Turbo 2001 e me l'ho venduta quella lì. Infatti, se quelle antenne corte non è che vadano tanto bene, no? Capito là, perché sono troppo caricate. Finisci. E poi andosi in zona d'ombra ne risentono di più. Io invece con la 2001 per dare onga come in te a vela si ricevi chissà. E anche la PLC 800 che ho io ce l'ho sulla base magnetica, è qua. Me l'ho tolta dalla macchina, non ce l'ho più. Invece te l'avresti dovuta lasciare, quando volevi modulare così non ti rompeva le palle nessuno dalla macchina. Se voglio modulare modulo, c'è la base magnetica, l'attacca alla cappotta e ando. Problemi faccio. Eccolo già vero. Ma io la Turbo 2001 la definisco la mantova delle macchine, perché mi dà dei segnaloni da tutte le parti. Se poi metti 747 vai alla grande, oltre i 9 a 27. Lo so, a me lo dici. Anche la PLC 800 va bene, è pure più leggera della 2001. È più flessibile anche, ma la 2001 non si pigia così, no? È bella grossa, non è che si muova molto quando cammini, capito? ma boh, a me mi è sempre piaciuta di più la cosa, perché era bella flessibile, capito? La PLC 800 era più leggera e tutto, e poi arrivava bene dappertutto. Te lo ricordi che quando andavamo, che ci mettevamo vicini, cazzo, e arrivavamo allo stesso segnale? E abbiamo fatto la prova alla quadrata, te lo ricordi? Infatti, ahi, ci veda la PLC 800. Ah, è vero. E c'è bene. Adesso io non so che antenna abbia proprio. Lui mi ha detto stamattina, lo sentivo che era stato lì, che doveva fare il vaccino. E mi ha detto che c'aveva la mini turbo, non è che c'aveva la turbo 2001. Forse è per quello. Boh. Sempre con ragione, con antenne. Sì, sono buone, ma fino a un certo punto. Diciamo che la 2001 sì, è pesante, ma su, quando viaggi e quando vai fuori rende, capito? Rende bene, io addirittura la sto usando senza nulla, senza lineare, senza nulla. La uso col magno, va benissimo. Adesso c'è Santiago 5 aumentato, che antenna stai usando adesso? Adesso si sente, adesso c'è un segnale di 5, prima eri 3, e mi durato due segnali, come avevo già appurato io, perché ne avevo tutti e due, mettevo una e riuscivo a due segnali in meno, mettevo l'altra due segnali in più, alla fine ho deciso di mettere la 2001 perché va benissimo. Io ho 3 di QRM e qua non arriva. Qua sta arrivando 5 natali di segnale, 5. E il radio però è un po' bassino, là. Non so cosa stia usando. Può darsi che abbia anche stazionarie, mettogliela che vuole attaccata direttamente alla batteria, l'alimentazione del baracchino, chissà chi gliel'ha fatto l'impianto, bisogna vedere se è nella carrozzeria o se c'è la base magnetica. Ha messo fili forse, vero Giovanni? Fili ha messo alla batteria per il baracchino. No, dalla batteria lo devi prendere, deve essere diretto dalla batteria. Allora, uno è quello, ci vuole i cavi dentro la batteria, e i cavi devono essere sempre un po' grossi, non devono essere fini, perché se sono finiti si sciolgono. L'altro giorno tu sentivi tutta imbruciata perché ti stavo sciogliendo i cavi. Se scaldano è un casotto. E tu passerò, io non lo sento niente, nulla, zero. Lo sento, ma è molto basso. Il segnale è buono, il segnale è Santiago 7 con 740 ai picchi, però è troppo basso di radio anche. Ciao Carlo, ma tu sei in alto, io per esempio sono in zona bassa e ho l'antenna che esce appena un metro dal tetto, quindi oltre il QRM che ho non arriva proprio qua. Poi addirittura Luca è in zona più alta di me, non lo sente manco lui, capito? Tu è perché c'hai quell'antenna lì e lo senti. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Gianni, ciao Luca, Natalino e Giovanni se non sbaglio. Ciao Carlo. Anzi, prima a casa usciva più basso Giovanni, perché c'aveva la mini turbo, adesso ci ha messo la turbo 2001. E se c'ha la turbo 2001 magari è carico di stazionarie, capito? Bisogna rivedere tutto l'impianto e accordare l'antenna. Non so come sia l'antenna, ma la 2001 da quando te la danno è 1-1 di stazionaria al massimo, in tutti i canali. E se poi la tocchi riesci per dire abbassarla in certi canali, io oramai la conosco, riesci a abbassarla in certi canali, in certi altri diventa 1-2, capito? Quindi è meglio lasciarla 1-1 in tutti i canali, buonanotte. Infatti, magari l'ha educata chi s'antenna, capito? Io Natali, come l'ho piazzata, era 1-1, ne ho misurato le stazionarie, sono andato al quadrato, ho attaccato il rometro, ho misurato le stazionarie, era 1-1, anzi manco 1-1, appena si muove, quindi va benissimo, dai, va molto bene. Poi ogni tanto vuole pulita, io la pulisco con un po' di CNC miscelano d'acciaio, la pulisco, invece tutta la cosone la pulisco, passo con lo straccio e ti abbassano le stazionali, perché a volte anche la sporcizia te le fa salire. Avanti, Luca. Vabbè, purtroppo non lo sento. Purtroppo lo sentivo perché era Sassari in macchina, con il camion. Natali, non è che sei meglio di te, io mi no. Non sono meglio di te. E magari per Centendole sei meglio, Luca, magari per i paesi tu vai meglio. Luca, io ti sento sino ad Alghero, all'aeroporto. Ieri ho provato a chiamarti, ma eri, capito, diciamo in compagnia di Gio Maria, mi sa, eri su un altro canale perché avevo messo in scansione, e tu arrivi bene sino a là, capito? E io ti sentivo bene con l'antennino, quello piccolo, con la macchina. Vabbè, diciamo, ha preso un po' di colpi questa antenna, ha perso un po', magari vorrà pulita e fatta, non lo so, sono levata un altro po', di qualche metro, adesso vediamo, primavera cosa fare. Sì, mi ricordo, adesso vabbè, Claudio forse, non mi ricordo che scendeva spesso, Gianni scendeva da Alghero spesso, no? Sì. C'era anche oggi Alghero, era l'aeroporto stamattina, infatti ho pensato, chissà se c'è carro alla volta. Vabbè, comunque, io mi ricordo, con Gianni ci ho sempre parlato, vabbè Gianni c'ha un impianto fatto meglio, dai, poi anche un aiutino, vabbè Gianni, ma vero, già mi ha sempre sentito anche lontano. Vabbè, sì, Santiago Lope mi sentivi a Sansa che mi fai dalla mano, e ti sentivo anch'io bene. Vabbè, no, ma adesso non ne ho più, non c'ho più nulla, c'è solo il baracchino e buco. Capito Carlo, comunque l'impianto vuol dire molto. Chissà come ce l'ha l'impianto Giovanni, ma lei mi sente lui a me, ma io non lo sento, non ho zero, non lo sento. Poi vabbè, la posizione è mia, non so se hai visto dove abito, non è che posso pretendere, avanti Carlo. E vabbè, però nonostante sei più giù di me, ma già esci bene verso, te l'ho detto, quella zona di Alghero, Porto Torres, quindi non dovresti avere, sicuramente lui non è in buona posizione e l'impianto non è fatto bene, perché io per esempio se sono dentro Sassari con la macchina e la base magnetica mi sentono più o meno dappertutto, con Santiago 8, 9 dentro Sassari, capito? L'alimentazione ce l'ho collegata alla presa accendisigari, io non l'ho fatta neanche diretta, però lui evidentemente chissà da dove l'ha ricavata, con Filifini eccetera, e l'antenna magari ha qualche problema. Non lo senti tu a Giovanni? Ciao Claudio. Non lo senti a Giovanni perché? No Claudio, non lo sento. No, arriva Santiago 5, arriva. E io non sento nulla, zero. Ma sei anche più giù tu. Strano che non ti arrivi, la posizione del vescio. Che ci è rimasto qua, che mi sono lontanato un attimo. Che ci avevo un bel fuoco. Che sono io, Carlo, Natalino, tu e tu. C'è anche quel cuoco, ma in Natalino c'è. Mica tu sei Pedibella, mio cuocuomane. Cuocuomane sei tu, io sono Pedibella, ma tu sei cuocuomane. Servane voi, che ne hanno tre due sacchi. Fate l'immagine questo Pedibella. È una fresca, amico, Natalino, appena arrangiato il piatto, tutto dentro le buste. Carlo, mi sa, sto tragicando di zeppi. Sempre con me se la prende questo Claudio, perché sono piccolo e nero. Allora Maggio mi conosce, non c'è problema. Va bene, e niente, ma ti avevi comprato il rasaerba da Bricoman, quello nuovo, là? Io, è un problema che ho fatto, è bello, quella che si chiama lì, bellissimo, sì, me l'ho dato le scatole, perché quando, ieri avevamo un discorso con Luca, appunto lì, che la gente si fa il piatto sintetico, lui, e c'era un capitale d'acqua, mi per fare un piatto inglese, l'anno scorso stavo 4, 5, anche 6 ore con i rigatori, anche 6 ore rigando l'acqua, ma c'ho il pozzo, ma però l'acqua, se tu sei collegato alla rete idrica, metti 6 ore di rigatori, ma non sai che altrimenti il gubbio quando sei consumendo, no? Hai capito? Perché molta gente si fa il piatto inglese per non consumare acqua, perché magari siamo con i tutta l'estate, sempre un reattore andente, sempre un reattore andente. Adesso che ce l'ho, Carlo, ti stavo dicendo, la nostra zona è un'euro di patto stanno uscendo. E quindi con il respiratore facevo tutte le fughe dietro i muretti, eccetera. Quest'anno bellissimo, molto molto bello, l'hai visto, stavo già iniziando quando si fanno tutto a prendere l'antenna. Adesso dall'altra parte, verso l'altro muro, dove ci sono le antenne, dove c'è l'antenna. Lì esce tutto uniforme, tutto. E quindi mi ho comprato l'erba, così sto iniziando a rasarla, è bella, sembra un campetto di calcio. E lì lo sai cos'è la cosa bella, d'estate ti esci a piedi nudi e senti la differenza, lascia perdere il sintetico, che è la cosa più bella in campagna, avere il prato normale, che lo bagni, senti il profumo della terra, eccetera, se no che gusto c'è, è un prato morto l'altro, capito? Io ti consiglio quello che stai facendo tu, la cosa migliore. Senti, mi dà la foto, è bellissimo, mi l'ho mandato anche a Luca. È molto bello, ma non mi interessa a me quello sintetico assolutamente, poi c'ho tutta l'attrezzatura, la cosa facevo quasi 300 euro per comprare la erba, bellissimo, mi piace lavorarlo, capito, mi piace farlo, e anche lì, questa tanto metto il coso, i bondoli fuori nell'erba, l'anno scorso sì, ci andavano, però l'erba non ce n'era, diciamo, infatti non ce n'era, stavamo molto sotto la veranda, poi con i salottini fuori, però quest'anno è molto più bello. Molto bene, molto bene, sì, anche questa sta una bella antenna, tutto capo di orologio. Avanti Gianni, riprendi, o Natalino, dai, uno dei due. Riprenditi un Natalino, sto leggendo una cosa. Chissà con che donna sta parlando al telefono questo Gianni il Caldo, a te l'immagini qua. Non stare attenti, questo ogni tanto perde l'orientamento. Ah, ma c'è un cazzo cigarro, già orientamento, non è perso l'orientamento adesso. Sono legato mani e piedi. Non seguivo altro, sì, vabbè, convivo la stessa cosa. Beh certo, la convivenza è sempre una cosa rispettosa, entrambe le cose, però quando c'è un matrimonio di mezzo è sempre diverso. Vabbè, se te facevamo bravo comunque. Avanti, un primo nei due la vendetta, Casarella. Nemmo, Giulia, per carità. E che ci vuoi fare? Utilizzare un amico qui troppo. Io 40, quest'anno 40, quasi 45 anni, 43 anni ci ho con mia moglie, cazzo fa problema te loro mi dà. Quando non sta bene, è così, quando non sta male, giusto che si torni un po' indietro, si facciano i passi indietro. Quindi Carlo, oggi domani, se lo sapevo te avrei chiamato stamattina, se sono andato a prendere un caffè, io sono sceso al Bricoman a prendere un paio di mensole, domani me lo devo piazzare, domani devo fare degli spostamenti nel salone di mobili, che non devo fare degli spostamenti, e poi sono andato arrivando il camioncino a scaricare il pelletto, mi ha fatto un culo che non ti dico, guarda. E niente, quindi ero a Sassari, sono andato dove a piazzare segni, a prendere un po' di frutta e verdura, ogni lunedì vado, se no non so, sapevo lì a casa, l'avrei chiamato proprio lì nella zona tua, sono andato a prenderci un caffè, vabbè, pazienza. Yeah. Lucchino, ho sentito che sei negativo. E si conferma. Greco italiano, sono negativo, però non mi sfidaccio più di tanto, dai. Vabbè, dai, è importante essere guarito, così almeno sei libero di uscire, di andare dove ti pare. È un casino, quest'anno, con questa variante che è molto contagiosa. Avete sentito Vigliorina, il Digitale Sardegna? 1900 sì, in 24 ore. Scusa, stiamo mettendo male la cosa. Perché è molto contagioso questo qui, questo Omicron è molto contagioso. Lui ha appiccicato un'amica mia anche al pronto soccorso, è finita. Noi che siamo a diretto contatto col pubblico, perlomeno quando siamo giù a fare i controlli dei passeggeri dobbiamo usare quelle, invece se siamo nelle postazioni solitarie, diciamo, lì possiamo usare anche le altre, capito? Perché è molto trasmissibile questa variante. Io uso la FFP2, sì, non voglio avere problemi. Chi c'era sotto Carlo Giovanni Tieri? No, ero io, stavo dicendo la stessa cosa che ha detto Carlo. Però non ti fidare con quelle chirurgiche, Carlo, perché quelle proteggono gli altri, a te non ti proteggono, hai capito com'è il discorso? E non si possono più portare adesso. No, ma poi non proteggono il possessore della mascherina chirurgica, proteggono gli altri, capito? Mettiti sempre l'FFP2 e buh, non ti vi dà. Sì, di quelle ci hanno dato adesso, ci stanno dando i pacchi da 10 e ogni volta che siamo giù col pubblico dobbiamo usare quelle, invece quando sono magari in altre postazioni tipo Varco Carraio, che lì sono solo, allora posso usare anche quelle altre, capito? E perché anche se la gente c'ha il Green Pass non è detto che non sia contagiosa, capito? Perché i passeggeri presentano il Green Pass e basta, non presentano il fatto che abbiano fatto un tampone negativo, e quindi per tutelarci stiamo usando quelle FFP2 adesso. Infatti, poi magari uno non ne sa neanche, perché può essere positivo e asintomatico, e quindi non ne sa neanche lui di essere positivo, capito? Da noi hanno sanificato tutto, perché lo stesso due colleghi sono risultati positivi, adesso sono in isolamento a casa, capito? E questi poi erano in contatto tutti e due insieme e si sono contagiati, e sicuramente l'avranno preso da qualche passeggero, perché altrimenti non si spiega. Evidentemente sì, più che così non può essere. Magari è passato qualche positivo che era asintomatico, anche se aveva il Green Pass, però lui non lo sapeva di essere positivo, capito? E ti contagiano, Mara Giusto. Purtroppo è così, Natalie. Bisogna stare molto attenti. E infatti, io pure mi ho messo quella FFP2 oggi quando sono andato a fare quegli esami che dovevo fare, e mi ho messo quella lì. Quella bisogna usare, non è che devi fare, io c'ho anche gli altri, però sto usando quella lì, ma va sicuramente molto molto meglio. Va bene, dai, sono le 8:05, io mi allontano un momento dalla radio, c'ho cosa a fuoco, se ci siete a dopo, vai già. Ciao Claudio, buona carica quando la fai, e dopo no, mi vado a televisione. Riprendi Carlo, per i saluti. Ciao Claudio, anche io tra un po' devo grattugiare il formaggio. Vabbè, anche io fra un po' devo portare il cane, quindi fra poco chiudiamo quasi. Avanti Luca. Io te lo porto, ero per mezza. Lasciate che ho questa cosa qua. Tra un po' anche io mi vado a cenare, ma io ho già il pollo pronto, non verde. In umido, dai. Poi c'ho la frutta, mi mangio. Mangio leggero, mamma voleva fare la pasta, anzi. Voleva prendere la pizza, torna la pizza, ma c'è a perdere. Cioè, lo voleva mangiare, a voglia. Stai lì a spendere i soldi, va. Ma tu devi mangiare brodino di mammo, perché tu sei un po' cuomane. Ciao Claudio, a proposito, buon proseguo, buona cena quando la farai. Parla adesso, parla bello bene. Ma vuoi finire? Mi ha fatto una minestrina di dado. Da solo da una vita che non ne faccio più, ho preso e me l'ho fatto. Mi ha dato la glicemia, no. cos'è che hai cucinato già? E c'è salita la glicemia, basta bello, uno fa altro. Ho voglia di mangiare un po' di medicina in proprio per apprendere, sono andato a buttare un cane proprio un freddo. Adesso mi faccio un po' di medicina di dano. Ho messo appena appena di sugo, il dano, così, e un po' di formaggio. Beh, mi è andata la glicemia a 200 e passa. Piero, non ci tu. Adesso vengo lì in regione Gesù Giuseppe Maria mettendo le mutande a Italia, hai capito? Tutti dici che non hanno fatto. Quando gli hanno spostato la schiuma da barba con la patata di pallone, hanno riempito tutto di schiuma da barba. Io non gli ho mandato una tota a forma di, già lo sai. E già me lo ricordo, c'è anche la clima. Che da voi un po' di cose che hanno fatto, già una volta l'hanno invitato a cena e gli hanno messo tutta l'asse della roba da mangiare e senti che si è partitato, gli hanno messo di là i pantaloni, se no li ci andava tutto qua. E io da Salvino Lollo che perché l'aveva fatto bisticciare con la moglie, no? E allora gli ha messo il Guttalax. E Gabino Barone Giallo l'aveva riadure gli ambini. E la volta che mi hanno dato l'appuntamento a Sassari di Picchio, che si sono vestiti con le lenzuola, che l'hanno fatto i cugini, dice che toccava i figli a sedere da quando stava correndo. E te credo. La volta che gli hanno messo il sombrero da messicano e non riusciva a entrare nella cabina telefonica per telefonare. Io c'è Piazza Castello, se si chiede di arrivare la cabina, come andava a entrare? Boh, via voi, vai avvisa a tua madre che sei con lui, ma gliel'hai detto no, dai avvisala che se no si preoccupa, se l'hai arrivata a po'. E lui, la vera barretta la messicana, e dopo entrava nella cabina. Entrava da poi le porte, sai com'erano, di quelle a scatolo, di quelle che avevano la molla. E tu li accogli. E rubigliava ciaffi dagli anni. No, questo doveva essere un grande personaggio, però, Cosa ti è perso? Un grande personaggio doveva essere questo. E poverino, era malato. Era. E lo prende il bacchetto. Sì, lo faceva una beffa. Non è giusto. Non è giusto, infatti una volta ho bisticciato io con Piero Drago. A chi le rapende arrabbiare, forse, guarda, per poco gli viene un infarto a volte. Io ho tutto le MP3, diciamo. E su internet io ce l'avevo, anche io ce l'avevo, ma no, non so che fine ha fatto. C'era Falcone a Castroncaro, cantava io la mamma lo diavo, la mamma lo diavo, ecco, so di me, poi la papà col pomodoro, Falcone che fa la corte, faceva il gioco della carta, poi insomma vedeva di tutti i colori, di tutti i colori. Era una quei microfoni Intec, quelli con la rettina. Ehi, quelli la scappo tra le gambe. E allora fa dire tra tra tra pariaghina. La barba, li facciamo sentire. E allora lui si eccitava. E diciamo che è stato un personaggio della 27, perché ne parliamo tuttora. Chissà che fine ha fatto, adesso deve essere un bel grande di età. Era già grande quando l'ho conosciuto io. Esatto, deve essere grandetto adesso. Dice che sta sempre lì alla piazzetta. Non alla piazzetta, come si chiama? Da Carrefour. È la più vecchia. C'è che la sorella gioca con le macchinette e gioca anche lì, capito? C'è il viso delle macchinette, la sorella va lì a giocare. A conso. Guarda, l'altro giorno io sono andato al bar per pagare il condominio, perché faccio primaria da in banca. Gli do 2,50 euro e me lo fanno subito. Devo fare le fila nel nulla. E c'era uno alle macchinette, non finiva mai di prendere i soldi. Blu, sempre scendendo soldi. Mette pagati i soldi di nuovo. Questo qui ci fa la giornata. Così era un collega mio, quando era al comune, già. La prima volta che entrava lì su, sbancava le macchinette. Chissà come faceva, boh. Allora, avevamo scoperto al corso di questo cinese che ogni volta che andava ci prendeva un po' di su, ogni volta vinceva. E alla fine il padrone ha avuto sospetto, ha chiamato la finanza, l'ha fatto controllare, ci avevano un programma nel telefonino che sballava la macchinetta, la faceva andare come volevi tu, capito? Ma ci andava senza programma e senza nulla, l'ho beccato un paio di volte, ogni volta che lui entrava al bar e giocava alle macchinette, ma l'arina si va via. Non so, ma quelle macchinette sono pericolose, io ho visto gente piangere con quelle macchinette lì. Ho visto uno che si è giocato sullo stipendio una volta. E allora, si giocavano lo stipendio e sono macchine mangia soldi. Quelle ti rovinano se non ti sai controllare. Io non ci ho mai giocato, la verità, non so mai come si giochi. Nemmeno io. Te lo ricordi quella volta che eravamo insieme con la persona là che ci ha detto vuoi che abbiamo i soldi e ci voleva far giocare? Io non ho voluto giocare nemmeno tu. Ha giocato lui, ha vinto in due macchinette, te lo ricordi? A ottava. Ehi, già me lo ricordo. E i soldi vanno sempre dove ci sono i soldi. Quello è poco ma sicuro. Quello i soldi se li metteva nei sacchi della Mondezza. Lui ha. E comunque è un bel carruso, perché due macchinette ha giocato e due macchinette ha vinto. Si è fatto 850 euro in due secondi. Ma ho ridenta nei macchinetti, li dagano i yuga e li dagano i bigini, no, alla niente. Quando vedono che sono belle piene, allora vanno e giocano. Perché non si spiega altrimenti. Ogni volta che entrava, che c'è un collega mio, guarda, sempre. Una volta l'ho incrociato dietro le carceri. Eravamo, fermati, li ho fatto. Cosa vuoi, Melis, mi ha fatto? Io entriamo a pigliarci.